italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Come sempre, in questa seconda parte della trasmissione cerchiamo di capire, approfondire un po' che cosa è successo durante questa settimana. Settimana molto intensa, come sapete, dal lato ancora una volta della Regione Lazio, di queste nomine di Renata Polverini fatte in extremis e poi le indagini che si allargano, l'inchiesta di Viterbo, la Guardia di Finanza ieri a Torino. Ma anche la prima apertura del Presidente del Consiglio Mario Monti a succedere a se stesso. Facciamo come sempre il punto con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. E allora, Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, partiamo da Monti, direi, no? Sì, ma che cosa è successo alla fine? Ha detto quello che era inevitabile che dicesse. Ha detto: io sono qua. Sono qua, contate su di me, voi forze politiche, rispettabilissimo ovviamente il percorso elettorale che state compiendo, ma insomma ci sono delle scadenze, c'è un problema di affidabilità internazionale del paese, sono stato in America dove palesemente sono stato accolto come l'uomo che sta aiutando l'Italia a percorrere questo sentiero difficilissimo, quindi insomma... contate su di me, ha detto Monti. Non è una candidatura, ma è qualche cosa che assomiglia a una candidatura. Dice, era prevedibile, perché fa il suo mestiere, il mestiere d'opposizione. Dice Di Pietro una roba così solamente nelle dittature. È vero però che perché? Suona. Non lo dico. Pensando a Di Pietro. Non è vero, non c'entra niente. Non è che Monti si impunta per restare dove sta con un governo tecnico. Lui dice facciamo le elezioni, ovviamente, nella primavera. Poi è opportuno, è auspicabile che i partiti trovino un punto di incontro. Lui è disponibile a essere quel punto di equilibrio. E quindi sono i partiti, sono le forze politiche parlamentari che avranno fatto le elezioni che dovranno dire se andare avanti con un governo politico, non più tecnico, ma politico, guidato da Monti, che è l'interlocutore dei nostri partner in Europa e oltre Atlantico, oppure se trovare un'altra soluzione. È tutto lì la questione. Secondo me è difficile trovare un'altra soluzione. Lui stesso aveva detto a Cernobbio, aveva detto fatico a pensare che un grande paese come l'Italia non possa esprimere una leadership, una persona in grado di guidare il paese. E però forse in realtà è esattamente così. Sì, no. Diciamo che quello potrebbe essere anche un modo ironico per dire attenzione che non avete un'alternativa migliore tra le righe, no? Ma insomma, questo è un po' un processo di intenzioni. Io dico che sul tavolo c'è un'ipotesi che c'era ieri, una settimana fa, che ci sarà fra un mese, cioè l'ipotesi di andare avanti con il Presidente del Consiglio che è considerato all'estero e sui mercati internazionali il miglior rappresentante più affidabile per l'Italia. C'è un problema di speculazione internazionale che ci tiene d'occhio, no? Quindi occorre dare a questi centri internazionali l'idea che l'Italia è un paese stabile. E le forze politiche hanno un grande ruolo, che è quello di formare una maggioranza politica sui risultati del voto. Ma questa maggioranza politica dovrà confrontarsi con questi problemi, queste esigenze, e questo Presidente del Consiglio che c'è ed è in campo. Stefano, io so che non ti appassiona particolarmente il gioco delle caselle, però è vero anche che c'è chi aveva dato il Quirinale già occupato dall'attuale Presidente del Consiglio. A questo punto i giochi forse si potrebbero riaprire. No, ma io non ci ho mai creduto. Non ci ho mai creduto. Naturalmente è un'ipotesi, non la possiamo scartare, ma io penso che Monti abbia fatto bene come capo del governo. Certo, ha imposto all'Italia una medicina dura, molto dura, non c'è il minimo dubbio, ma il problema della crescita lo si risolve con un quadro internazionale più favorevole e con un concorso delle forze politiche, delle forze economiche. Non è che può essere, diciamo, la crescita propiziata con un colpo di bacchetta magica. E Monti, ripeto, secondo me può essere il continuatore di se stesso nel ruolo che occupa attualmente, cioè come rappresentante del potere esecutivo. Il Quirinale è un'altra cosa. Secondo me Monti è più tagliato per fare quello che sta facendo adesso. Vedi una qualche figura nella politica, ma anche nel mondo dell'economia, per esempio, che possa arrivare in quella posizione in questo momento in Italia? Perché abbiamo detto che forse c'è una carenza di leadership dal lato politico, ma qualcuno che possa aspirare al Quirinale, secondo te, legittimamente e con qualità, diciamo così, la vedi una figura così in giro? Ma ce ne sono, sicuramente ce ne sono. Occorre una figura che possa degnamente continuare l'opera di Napolitano, che è stato un garante e anche, diciamo, un timoniere in certi momenti difficili. Ma i nomi sono tanti, si potrei fare quelli di Giuliano Amato, di Romano Prodi, di altri, anche alcuni rappresentanti della politica, diciamo, partitica. Ricordo che al Quirinale di solito non vanno mai i leader dei partiti. Nella nostra storia è soltanto successo una volta con Saragat, che era un esponente di un partito, segretario di un partito che è andato al Quirinale, ma era anche una personalità storica. In genere si tratta di personaggi che hanno un'esperienza politica, ma che non hanno una funzione, un ruolo di leadership nelle loro rispettive forze. Tutto questo va di pari passo, e probabilmente l'uscita di Monti non è stata indifferente a tutto quello che è successo nel corso della settimana dal lato delle inchieste, quello che ha riguardato la Regione Lazio, come si diceva, con la Polverini, che alla fine si è dimessa, ma naturalmente facendo quella decina di nomine prima di andarsene, le nuove inchieste che ci sono, e naturalmente probabilmente il rischio che la cosiddetta antipolitica cresca ancora, quantomeno nei sondaggi. La pagina del Lazio è una pagina ignobile e credo che abbia fatto più danni al sistema politico di qualsiasi altra vicenda. È uno spot fantastico per l'antipolitica. Io penso che quello che dovrà fare il governo nei prossimi mesi prima delle elezioni non sia soltanto tenere d'occhio lo spread o guardare i conti pubblici, ma avviare con molta decisione quello che è un profilo di un'iniziativa politica di un profilo molto alto, cioè il risanamento morale, a cominciare dalla legge anticorruzione, ma non soltanto fermandosi a quello. Dovrà dare l'impressione agli italiani che a Roma c'è qualcuno che sta mettendo mano nelle pentole sporche dello sperpero del denaro pubblico, in qualsiasi luogo, a cominciare dalle regioni. C'è in ballo, a proposito, questa ipotesi di decreto legge che potrebbe varare il governo. Facciamo una piccola scommessa: scommettiamo che l'Assemblea regionale siciliana ricorre in nome dell'autonomia. Questo dell'autonomia è uno dei grandi problemi. Questi scandali che hanno investito le regioni stanno mettendo in forse tutto, stanno mettendo in dubbio anche l'opportunità e delle regioni a statuto speciale, ma insomma, mi dispiace dirlo, anche dell'autonomia delle regioni a statuto ordinario, perché è stato fatto un pessimo uso delle competenze che si sono via via costruite nel corso dei decenni. È il momento in cui lo Stato centrale si faccia sentire, non per cancellare queste autonomie, ma per metterle, diciamo, in ordine e per far capire che l'autonomia non è diciamo, il piacere di dissipare il denaro pubblico. Il denaro pubblico è denaro pubblico. E deve essere utilizzato per quello per cui deve essere utilizzato, naturalmente. Veniamo adesso ai partiti, però. Ritorno sulla scena un'altra volta, direi, vero, di Silvio Berlusconi, con delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere, soprattutto quelle sull'euro, direi. Ma sono dichiarazioni che sono abbastanza incomprensibili, perché non mi sembra che Berlusconi abbia voglia di cavalcare una crociata contro l'euro. Quindi dice delle frasi che poi sono incoerenti rispetto all'azione di tutti i giorni, perché nell'azione di tutti i giorni Berlusconi sostiene Monti. Lui stesso sa che Monti oggi è un punto di riferimento proprio per quell'Italia moderata a cui una volta guardava Forza Italia. Quindi sono dichiarazioni che mi sembrano estremamente contraddittorie e poco significative da un punto di vista politico. Vedremo come, insomma, che cosa succederà nelle prossime ore e che cosa dirà di nuovo il Cavaliere, perché insomma ci ha... Ogni giorno dice una cosa diversa. Esattamente. Mi sembra molto, molto incerto sul da farsi, ecco. Qualche segnale di nervosismo invece da Matteo Renzi ci è sembrato di vedere nei giorni scorsi, in una intervista realizzata da Diego Bianchi in arte Zoro. Insomma, si è fatto trovare un po' rabbioso. Forse inizia a sentire la pressione di questo partito che gli dà addosso. Penso anch'io, penso che ci sia una pressione, penso che sia la fatica di questa campagna che indubbiamente pesante da condursi, però io vedo che un po' tutto il centro-sinistra è ancora in cerca di un'identità, in cerca di autore, si direbbe. Renzi è nervoso, Bersani ha grossi problemi, indubbiamente, per esempio ce li ha con quell'ala del suo partito, diciamo alcuni degli ex popolari, dei cosiddetti centristi, che non sono affatto d'accordo nel dire no a un'ipotesi di nuovo governo Monti, come ha sostanzialmente detto Bersani. Sono favorevoli, Enrico Letta, questi qui. E quindi questa è una frattura abbastanza significativa che si apre nel partito e che dovrà essere ricomposta prima delle elezioni. Anche qua vedremo che cosa succederà. Nel frattempo, grazie Stefano Folli e buona giornata. Arrivederci. Noi ci fermiamo naturalmente. Adesso ci ritroviamo tra un attimo e parleremo di una sorta di sistema di voto online che viene già utilizzato dai pirati tedeschi e che è stato utilizzato anche dal Movimento 5 Stelle in Sicilia.